ci vedo molto meglio. Ad occhio nudo nella cenere, come le stelle quando si spengono al mattino, divento subito invisibile. E quando dormi dove vai? E cosa sogni quando poi si fa giorno? Guardati attorno e trovami una cura, dai, che mi faccia paura oggi, che non ho più nessuna voglia di vivere di corsa, di vivere di corsa. Ci vedo molto meglio, mi sembra di essere invisibile. Corro verso la frontiera, si illumina appena un salto dall'altalena, tutte le volte che ti rivedrò. Ma quando dormi dove vai? Che cosa sogni? Quando poi si fa giorno, guardati attorno e trovami una cura, dai, che mi faccia paura oggi, che non ho più nessuna voglia a rivivere di corsa. Che cosa me ne importa? Manderò in frantumi un altro specchio, chiudo tutti i sogni nel cassetto. Me ne importa.